Redacta è un'inchiesta sul lavoro editoriale, soprattutto freelance, che parte ad aprile del 2019, si muove nel perimetro di ACTA, che è l'associazione che dal 2004 si occupa dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici autonome. Quindi è partito come un sondaggio e hanno risposto più di 300 lavoratori dell'editoria e abbiamo scoperto cose che tutti nel profondo forse sapevamo già, ma insomma sono venute fuori con più forza. Per dare due dati, abbiamo scoperto per esempio che più del 50% di chi lavora freelance nell'editoria guadagna un lordo inferiore a 15.000 euro l'anno a fronte di un orario full time, quindi di 40 ore a settimana. Abbiamo scoperto anche che gli uomini vengono pagati di più delle donne, che i compensi delle case editrici in generale per i freelance sono meno che dignitosi, meno che equi, delle volte sono veramente raccapriccianti. Quindi poi da questa inchiesta ovviamente siamo passati a voler mettere su una coalizione tra lavoratori e lavoratrici. Abbiamo fatto delle riunioni carbonare tra virgolette a Milano, siamo stati a Roma e diciamo che però soprattutto ci muoviamo su Milano, ma domani appunto vuole essere la prima occasione per vedere se c'è spazio anche a Bologna, dove comunque di case editrici la città ha case editrici e vogliamo un po' tastare il terreno. Sostanzialmente il tema dell'equo compenso insieme a più in generale al tema dei diritti è il problema più grosso forse in questo settore. Però una cosa che ti volevo chiedere è se i lavoratori e le lavoratrici di questo settore, come dire, percepiscono questa forma di sfruttamento che subiscono o se invece l'accettano. Sì, questo è il problema diciamo interno al fronte, nel senso che essendo uno dei soliti lavori diciamo di passione, vocazionali, c'è molta omertà, anche molta poca voglia di parlare di compensi, di diritti. I lavoratori freelance sono per il loro statuto diciamo isolati, lavorano da casa, hanno poche occasioni di incontro e come diciamo noi quando si incontrano di soldi non si parla mai, quindi sicuramente c'è una mancanza di consapevolezza anche interna che ovviamente presta il fianco a vedersi propinare tariffe diciamo spregevoli, pagamenti ritardati, che sono cose che poi soprattutto sulla tempistica dei pagamenti, cioè sono cose anche normate dallo Statuto del Lavoro Autonomo del 2017, che è una delle vittorie di ACTA diciamo più recenti. Però sì, c'è sicuramente una mancanza di presa di coscienza da parte di chi entra in questo mondo, perché in qualche modo si contribuisce alla cultura, in qualche modo si fa il lavoro che si ama e quindi è più difficile far valere i diritti e prevale più un atteggiamento ecco emotivo, passionale, quindi dobbiamo lavorare anche su quello. Domani sarà appunto nell'incontro un primo appuntamento anche per rompere questo isolamento di queste lavoratrici e lavoratori. Come si svolgerà l'incontro? Noi veniamo per ascoltare, veniamo in pace per ascoltare, nel senso che l'incontro sarà una breve presentazione di quello che è ACTA, una presentazione più corposa di quello che è Redacta, anche con le proposte, perché c'è anche una pars construence nel nostro discorso, ma appunto essenzialmente sarebbe una chiamata alle armi per i lavoratori e le lavoratrici delle editoria sul territorio bolognese, quindi veniamo ad ascoltare le condizioni diciamo di tutte queste persone che vorranno partecipare, anzi se state ascoltando partecipate, veniamo ad ascoltare, a cercare appunto una coalizione anche su Bologna, perché è pur vero che c'è l'hub principale dell'editoria rimane Milano, ma da freelance si può anche vivere altrove, quindi appunto speriamo di beccare tutte queste persone interessate anche su Bologna. Tu accennavi alle proposte e poi spoilerà arcene qualcuna? Sì, allora, prima di tutto abbiamo ideato diciamo un metodo che in realtà è filiato da un metodo che è in vigore in Gran Bretagna, dalla Low Pay Commission, che sarebbe un metodo per calcolare l'equo compenso. Si tratta praticamente di un calcolo che ognuno di noi deve fare con chi ha partita IVA tra mediana delle tariffe vigenti nel settore e media delle cartelle lavorate all'ora. Comunque a queste cose per queste cose più tecniche rimando alla nostra sezione online nel sito di ACTA. Le proposte sono che i lavoratori e le lavoratrici siano visibili nei colophon dei libri, perché di solito c'è l'autore in copertina, il traduttore quando va bene, ma mancano tutte le altre professionalità. Abbiamo una proposta anche sugli stage per fare in modo che siano formativi veramente e non un abuso per avere lavoro diciamo gratuito o semi gratuito.